Un aspetto molto importante della psicologia freudiana, ancora oggi validissimo, è la riflessione sulla tematica del desiderio. L'essere umano è un essere desiderante. Quando è bambino, il desiderio viene soddisfatto dalla madre. Non deve fare nulla il bambino per ottenere la realizzazione del desiderio. Avviene automatico. Quando il bambino cresce, per soddisfare un desiderio, la realtà gli pone degli ostacoli. Se vuole salire su un mobile deve fare un po' certo sforzo, se vuole raggiungere il cibo, non so, deve andare in un'altra stanza ad aprire il frigorifero. Questo lavoro che il bambino deve imparare a fare per realizzare i desideri si chiama lavoro psichico. Noi non nasciamo dotati di psiche, la psiche è la conseguenza del lavoro psichico che la realtà impone al bambino una volta via via che cresce. E senza questo lavoro psichico la psiche non si forma e quindi rimaniamo infantili. Da adulti possiamo regredire all'infanzia quando vogliamo la soddisfazione dei desideri senza dover faticare per. Allora la soddisfazione immediata senza fatica dei desideri si chiama Freud, per Freud si chiama principio del piacere, mentre il principio della realtà è il principio che ci insegna che per ottenere la soddisfazione di qualcosa dobbiamo fare un certo sforzo, una certa fatica, questo è un certo lavoro. Uno dei test più interessanti da svolgere su un bambino è se il bambino a una certa età, a 6 anni, è in grado di rinviare o no la gratificazione. Bambini che sanno rinviare la gratificazione vuol dire che hanno già svolto un sufficiente lavoro psichico per creare un io, abbastanza solido. Coloro che non sono in grado di rinviare la gratificazione hanno un io debole. Bene, questo test pare che sia uno dei più attendibili per vedere tra questi bambini quelli che poi da adulti realizzeranno se stessi oppure saranno in balia di varie forme di dipendenza.